trasfigurazione, l'illuminazione. Ora la visione del risorto, la trasfigurazione, l'illuminazione. Ed è pace, ed è luce, perfetta giovinezza e perpetuo movimento. Ed è pace, ed è luce, perfetta giovinezza e perpetuo movimento. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue sarà salvo, dice il Signore. Chi crede nel mio nome e vive nell'amore sarà salvo, dice il Signore. Il bene eternamente separato dal male, delizia eterna. Ora la visione del risorto, la trasfigurazione, l'illuminazione. Ora la visione del risorto, la trasfigurazione, l'illuminazione. Lontano dai tormenti e dall'angoscia e dai dolori, lontano da ogni male. Conoscenza intima dell'altro, carità ineffabile, perpetua attività, Dio in tutti, Dio in tutto. Ed è pace, ed è luce, perfetta giovinezza e perpetuo movimento.